Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Maggio 2011. Allo stadio Marassi di Genova si gioca Sampdoria-Palermo, ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Per il Palermo la partita non conta ormai nulla. La Sampdoria invece si gioca tutto. Se non vince, è Serie B. I doriani hanno vissuto una stagione surreale. Dopo il quarto posto della stagione precedente, hanno giocato i preliminari di Champions League, perdendo in maniera a dir poco rocambolesca ai tempi supplementari con i tedeschi del Werder Brema. Poi è arrivata la cessione a campionato in corso dei due pezzi pregiati. Prima Antonio Cassano, poi Giampaolo Pazzini. Sia ben chiaro, non c'è nessuno, a meno che non sia un folle, io parlo dei miei colleghi, che tiene un giocatore che vuole andar via e ha fatto di tutto per andare via. Questa è la ragione per cui è andato via Pazzini. Io l'ho già detto più volte, si continua a ritornare che questo, a dire sui media che è la conseguenza dell'uscita di Pazzini. Un Pazzini com'era a gennaio, com'era a dicembre, come è stato da quest'estate, in Sampdoria sarebbe stato meglio far giocare, non so, Krstičić, sia ben chiaro. Credo che tutti quelli che contestano dovrebbero intendersi più di Carlo, vanno di me di calcio, e che non abbiano capito che Pazzini non si poteva tenere e continuano a protestare su questo. Tra l'altro io non c'ero, ma me l'aspettavo, è incomprensibile come i tifosi non capiscono che non si poteva più tenere, tanto che l'hanno applaudito quando è venuto a giocare in campo, mentre Cassano l'aveva fischiato. Il presidente della Samp, Garrone, spiega le ragioni della cessione di Giampaolo Pazzini. I tifosi comunque non gradiscono, anche perché la squadra naviga a metà classifica. È dispiaciuta? Certo, tantissimo, tantissimo, perché stiamo perdendo tutti. Uno per volta ne perdiamo tutti. E beh, un po' amareggiato lo sono, certo. Sei mesi fa eravamo in Champions League con Cassano e Pazzini, ora non siamo da nessuna parte con Biabiani. Ci sono rimasta tantissimo male. Ma adesso ci sono Macheda e Maccarone. Vabbè, ma Pazzini e Cassano erano i migliori. Cassano tirò un po' matto, non ha fatto mandarlo via, secondo me. Pazzini è un'altra cosa. Non sono contento perché le due squadre di Genova sono sempre una peggio dell'altra. I dolori sono alti, però è una delusione. Che umore puoi avere quando ti vendono tutti, manca che vendono anche Palombo, abbiamo finito di giocare. Nel girone di ritorno, senza i suoi uomini di riferimento, la Samp sprofonda. Fa 10 punti in 17 gare e piomba al terz'ultimo posto. Per salvarsi, il 15 maggio 2011 deve sconfiggere il Palermo. E qui a Genova c'è il sole ma anche un discreto vento, 25.000 spettatori sugli spalti, venuti di citare la Sampdoria che deve vincere per allontanare lo spettro della retrocessione. Il Palermo invece si gode la qualificazione alla finale di Coppa Italia con l'Inter e dalla Europa League ormai certa. Due disqualificati oggi, entrambi doriani, Ziegler e Mannini. Le formazioni, la Sampdoria gioca con Da Costa tra i pali, Zauri, Volta, Lucchini, Lacco in difesa, Guberti, Palombo, Tissone e Biabiani a centrocampo. Le punte sono Maccarone e Pozzi. Risponde il Palermo con il portiere Belussi, difensori Cassani, Muñoz, Goian e Darmian al centrocampo, Migliaccio, Liverani, Nocellino, il trequartista Ilicic, le punte Hernandez e Miccoli. Dirige la partita il signor Mazzoleni di Bergamo, oggi avrà la collaborazione degli assistenti Di Liberatore e Manganelli. La Sampdoria spinge, cerca il gol a tutti i costi. Ne segna uno con Pozzi che viene annullato. Così, in contropiede, segna il Palermo con Miccoli. Con la forza della disperazione, i doriani trovano il pareggio con Biabani. Le speranze di salvezza, però, si sgretolano al minuto 86. Alle 16.43 di domenica 15 maggio, l'attaccante del Palermo, Piniglia, infila in contropiede i blucerchiati. Finisce 2-1. La Sampdoria, una delle squadre più prestigiose della massima serie del nostro campionato, precipita in Serie B. Davanti alla curva dei doriani, il capitano della squadra, Angelo Palombo, piange e si scusa. È un bellissimo momento di sport. I tifosi, a loro volta in lacrime, applaudono. Sembrano perdonare il condottiero sconfitto della loro squadra. Nei loro occhi, però, scorrono probabilmente le immagini di un'altra Sampdoria, quella straordinaria costruita nella seconda metà degli anni Ottanta da Paolo Mantovani, capace di issarsi sul tetto d'Italia e poi a due passi dal tetto d'Europa. Di quella Sampdoria oggi, in omaggio ai dei tifosi blucerchiati, vogliamo parlare qui a Destini Incrociati, raccontando la storia dei due campioni che l'hanno fatta grande. Innanzitutto c'è un uomo amato dal suo popolo, che lo ribattezza Paolo VII, il pontefice massimo di Genova. Si chiama Paolo Mantovani, è un petroliere. È nato a Roma il 19 aprile 1930 e nel 1979 acquista la Sampdoria. Per salvarla dal fallimento, si mormora, in realtà ha ben altre ambizioni. Sì, è una squadra di Serie B decisamente che stiamo tentando di riorganizzare, penso che su questo punto ci si sia anche riusciti, e di portare ad un livello che naturalmente è la Serie A, per parlare chiaro, dal quale non si debba poi staccare successivamente con quella facilità estrema come poteva essere, diciamo, in passato. La utopistica forse aspirazione che ispira il programma della nostra società oggi è di renderla forte, molto forte in tutte le sue strutture, in modo che una volta esplosa questa realtà venga a essere mantenuta anche per il futuro. La squadra è in B, ci rimane altri due anni. Poi Paolo Mantovani costruisce il team per la scalata alla massima serie. Scanziani e Manzo a centrocampo, Zanone, Sella e Garritano in attacco. Difensori come Guerrini e Galdiolo. La panchina è di Renzo Ulivieri e la Serie A viene raggiunta con una giornata d'anticipo nel 1982, 0-0 in casa con il Rimini. Nel 1982 Mantovani opera sul mercato con grande intelligenza. Riesce a portare a Genova Trevor Francis e Liam Brady, due campioni anglosassoni in grado di far fare alla Samp il salto di qualità. Poi Mantovani si concentra sull'acquisto di un giovanissimo campione che già da un paio d'anni milita nel Bologna. Uno che ha esordito in Serie A a 17 anni e che nell'ultima stagione ha giocato con i rossoblù tutte e 30 le partite, segnando 9 gol. Talento precocissimo, ma anche un personaggio un po' bizzarro. Impressionante ciuffo di capelli, giubbotto di pelle, l'aria di chi ha imparato a stare al mondo molto in fretta. Il suo nome è quello di un grandissimo del nostro calcio, Roberto Mancini. Roberto Mancini. Roberto Mancini è nato a Jesi, da una famiglia di origini umili, nel 1964. Suo padre, Aldo, fa il falegname ed è un grande appassionato di calcio. Così non gli sfugge di certo il fatto che suo figlio, fin da bambino, evidenzi un talento enorme per il pallone. A 13 anni Roberto entra nelle giovanili del Bologna. È ancora un ragazzino, ma nonostante questo si trasferisce a vivere a centinaia di chilometri da casa, lontano da mamma e papà. Ma è tanto che non vado più a Jesi, però sento i miei genitori per telefono e sono contentissimo. Mancini vive in un convitto. Si deve organizzare da solo lo studio e la sua precocissima vita professionale come calciatore. Regge l'urto, matura in fretta. Non ha ancora 17 anni quando il 13 settembre 1981 esordisce in Serie A in Bologna-Cagliari 1-1. Un mese dopo, il primo gol. Quindi Albiero, adesso subentra la paura. Rosso blu ed è gol! Ed è gol! Mancini andando a pareggiare in questo momento al 33esimo della ripresa. Mancini dopo un pasticcio ancora della difesa. Seguono altri 8 gol alla prima stagione in Serie A. Il Bologna con Baldini. Baldini, cross di Baldini, arriva poi di corsa Mancini ed è gol! Ed è gol! Carrera che di petto con molta calma serve ancora Neumann. Al centro Mancini e Fiorini. L'intervento di Mancini e il gol splendido di Mancini su servizio di Colomba. Neumann esterno per Fabbri che raggiunge palla e poi la mette, la tiene fra i piedi e cerca di andarsene. Fabbri, Mancini, Mancini, tiro e gol! Gol! Gol! È un tiro in diagonale! A fine stagione però il Bologna retrocede, nonostante i gol di Mancini. Adesso sono un po' stanco perché dopo 11 mesi sono molti, ho corso molto, ho giocato molto, quindi adesso sono un po' stanco, però da domani vado in vacanza, spero di riprendermi subito. È l'estate del Mondiale spagnolo del 1982. Estate di contrattazioni, di calciomercato intenso, dato che viene portato a due il numero di calciatori stranieri tesserabili da ciascun club. Come detto, la Sampdoria di Mantovani, ambiziosa e fresca, acquista Brady e Francis. Ma il vero colpo è Roberto Mancini, l'uomo giusto per aprire un grande ciclo. Mancini è un talento vero. Ha tutto: dribbling, visione di gioco, grande tecnica, personalità da vendere. Il costo del suo cartellino per l'epoca è molto alto: 4 miliardi di lire per un ragazzo di appena 17 anni, più tre giocatori che finiscono al Bologna. Paolo Mantovani prende subito in simpatia quel ragazzo un po' sfrontato ma così geniale. Tra i due nasce subito un rapporto quasi padre-figlio. Mancini trova a Genova la sua dimensione ideale e ripaga a suon di gol la fiducia di Paolo Mantovani. Sigla la sua prima rete ufficiale con la Sampdoria e la prima rete in carriera in Coppa Italia il 1 settembre 1982 al 63esimo minuto di Sampdoria-Brescia, dopo essere subentrato all'inizio del secondo tempo a Rosi. Fa il suo esordio con la maglia blu cerchiata in campionato, partendo tra gli 11 titolari nella gara contro la Juventus dei campioni del mondo Zoff, Cabrini, Rossi e Scirea e di Leroy Michel Platini, il 12 settembre 1982. Marassi è una bolgia. D'accordo, al termine delle prestazioni. Attenzione, Cioffi, attenzione, qui è Genova. Da loro della folla avrete capito che la Sampdoria è passata in vantaggio. Il tiro è stato effettuato da Mullo, da Ferroni, che ha colpito il pallone con tanta precisione da mandarlo sulla destra della rete difesa da Zoff, battendolo sul settore di destra. Vano il tuffo del portiere della Nazionale. Mauro Ferroni, un terzino, a centrocampo ruba palla a Rossi, salta a Platini, evita Scirea, infila con un tiro dal limite dell'area a Zoff. Mancini ispira il gioco dei doriani, che mandano in estasi il pubblico e battono la Juve. Nelle settimane successive, Mancini sigla il gol partita a San Siro contro l'Inter e in casa contro la Roma. La Samp è prima per qualche giornata. Viene poi ripresa, ma è ormai nel calcio che conta. Conclude settima, a 4 punti dalla zona UEFA. Mancini è definitivamente uno dei big del calcio italiano. Yes, I'm moving. Yes, I'm moving. Get ready for the big time. Tap dancing on landmine. Yes, I'm moving. Yes, I'm moving. Off to Lizzie. Do a tiki dizzy. Give it all you got. And take your booty on your big tree. Wack down. Living in a movie. Hot tramp. Daddy's in a cutie. Nella stagione 1983-1984 la Samp acquista altri giocatori, tra cui spicca il centrocampista Fausto Pari. Il risultato dell'anno precedente però non viene migliorato: settimo posto. Mancini, sempre protagonista, esordisce anche in nazionale. La Samp ha bisogno di un'altra punta, di un attaccante da affiancare a Mancini che possa sfruttarne a pieno le qualità di assist man. Nell'estate del 1984 Paolo Mantovani decide di investire in un altro colpo, soffiando alle grandi del calcio un talento ventenne, attaccante della Cremonese, che faceva gola a tutti. Forse non immagina Mantovani che con quell'acquisto sta per cambiare definitivamente la storia del suo club. Non immagina probabilmente nemmeno che sta per andare a costruire una delle coppie d'attacco più forti del nostro calcio. Il nome di questo funambolico attaccante è anche quello del nostro secondo personaggio di oggi, Gianluca Vialli. Gianluca Vialli. Il primo incontro tra Vialli e Mancini, in realtà, era avvenuto nella primavera del 1982. A Coverciano, sede del ritiro della Nazionale, vengono radunati i migliori giovani del nostro calcio, pescati tra tutte le divisioni. C'era questo ragazzo, Roberto Mancini, cui già si parlava moltissimo perché giocava nel Bologna, stava per esordire in nazionale, aveva già esordito in Serie A e faceva il centravanti arretrato, aveva queste gambe forti e muscolose e questo ciuffo che gli copriva praticamente fronte e occhi quasi fino sul naso e giocava già molto bene e quindi ho detto questo qua mi darà del filo da torcere. E io avevo già giocato in Serie A, avevo già fatto 9 gol, lui era un pivello. Un pivello, forse, ma con un talento enorme e una storia completamente diversa dalla sua. Vialli, quinto di cinque figli, nasce a Cremona nel 1964 e lì cresce in una famiglia decisamente benestante. I primi calci al pallone vengono tirati nel cortile di casa, dove Gianluca mette però in mostra il suo talento. La famiglia di Vialli ha un castello in un piccolo comune fuori Cremona. Gianluca trascorre lì le sue estati e invita tutti gli amici a giocare nell'immenso prato fuori dal castello. D'estate, quando la mia famiglia si trasferiva in una casa di campagna, avevo finalmente la possibilità di giocare sull'erba e lì allora ci si divertiva a provare le rovesciate, le mezze rovesciate, tutte quelle acrobazie che poi in un certo senso immagino mi siano rimaste. Rimangono e come quelle acrobazie che Gianluca mette in mostra sin da subito nelle giovanili della Cremonese, la squadra di casa che non se lo fa scappare. Vialli può dedicarsi al calcio senza spostarsi dall'accogliente ambiente familiare nella squadra di casa. Con la maglia grigio-rossa, Gianluca fa il suo esordio in prima squadra a 16 anni, dopo tre campionati giovanili. Calpesta un paio di volte i campi di C1. Non è molto, ma capita nell'anno giusto, quello della promozione in B. L'anno successivo, tra i cadetti, il ragazzino trova spazio tra un vecchio marpione, Sauro Frutti, e una speranza mai definitivamente sbocciata, Mario Nicolini. Lo lancia a Vincenzi e dopo il suo esonero lo conferma Mondonico, che stravede per lui. È un talento e un portafortuna, visto che al primo anno di cadetteria la Cremonese agguanta la salvezza e nella stagione successiva manca la promozione per un soffio agli spareggi contro Catania e Como. Gianluca e la Cremonese ci riprovano subito e al secondo assalto il grande sogno è conquistato. Lui ci mette 10 reti in 37 partite ed è l'ultimo regalo che fa alla squadra della sua città. Già da un anno l'aveva bloccato la Sampdoria di Paolo Mantovani. Accetto volentieri di andare magari a rischiare qualcosa in più a Genova, però ho più chance di fare una carriera migliore. Vialli e Mancini, i gemelli del gol, sono pronti nel 1984 a rivoluzionare le gerarchie del calcio italiano e a far sognare un'intera città. Estate 1984. Il presidente della Sampdoria, Paolo Mantovani, incrocia i destini di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, che si ritrovano a formare a Genova la coppia d'attacco più giovane del calcio italiano. Vengono immediatamente ribattezzati i gemelli del gol. I gemelli terribili, perché per le grandi del calcio italiano affrontarli è un vero incubo. In realtà, al loro primo anno insieme in maglia blu cerchiata, Vialli e Mancini segnano poco in campionato, solo 3 gol a testa. Ma animano il gioco della squadra, allenata da Bersellini, che arriva fino al quarto posto in Serie A. Vialli impressiona per la fisicità del suo gioco e per le straordinarie acrobazie, in particolare per le frequenti e spettacolari rovesciate. Mancini affina un colpo che diventerà il suo marchio di fabbrica, il colpo di tacco. Giocare col tacco perché, insomma, era divertente, era un colpo che io avevo e quindi lo usavo spesso. Il colpo di tacco è una cosa che viene quasi naturale a chi è sempre, diciamo, un tempo avanti, no? Un tempo di gioco avanti rispetto agli altri, quindi vede che c'è un movimento alle spalle e quindi esegue un passaggio senza bisogno di doverti stoppare, girare, vedere, quindi è sempre un po' avanti. Il capolavoro di Vialli e Mancini nella stagione 84-85 è però la Coppa Italia. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la Sampdoria si aggiudica il trofeo, sconfiggendo in finale il Milan allenato da Nils Liedholm. Buonasera. A Marassi, Genova, si celebra ufficialmente la chiusura dell'annata agonistica 1984-85 e si assegna anche la Coppa Italia. È la finale di ritorno. All'andata a San Siro, la Sampdoria vince 1-0, rete del nuovo straniero, Graham Souness. A Marassi è l'apoteosi. Al 41esimo segna Mancini su rigore. Al 61esimo tocca a Vialli. Vialli. Virdis accorcerà le distanze per i rossoneri 5 minuti dopo. La Sampdoria vince il suo primo trofeo nazionale e si qualifica per l'Europa. La stagione successiva giocherà la Coppa delle Coppe. Alla Samp si era creato un gruppo di giocatori giovani, tutti della stessa età. Ragazzi con i quali condivido la stessa filosofia di vita, grande divertimento, però si facevano le cose seriamente. La Samp in effetti trasmette agli appassionati proprio questa idea. Una squadra fresca, impertinente, sbarazzina, che ha in Vialli e Mancini l'immagine della sfrontatezza. La Coppa Italia diventa il trofeo a cui la squadra blucerchiata sembra più affezionata. Finale anche l'anno successivo, 1985-86, persa contro la Roma. Finale anche nel 1987-88 contro il Torino. Finale molto particolare per tanti motivi. All'andata a Genova la Sampdoria ha vinto per 2-0 con gol di Brigel e Vialli, quindi per il Torino necessitano 3 gol. La Sampdoria però gioca male, malissimo, quella finale. Va sotto 2-0 e viene trascinata ai tempi supplementari. Vialli è frastornato. Il motivo? Silvio Berlusconi, presidente del Milan, nella primavera del 1988 gli ha messo sul piatto una pila di miliardi per farlo andare a Milano. È stato un momento in cui poteva andare al Milan e era quasi tutto fatto. Prima dei supplementari di quel match accade un episodio curioso. Io ricordo che avevo un mal di pancia quella sera, arbitro Agnolin, e alla fine dei tempi regolamentari io dissi: devo fare una corsa in bagno, e gli ho detto: guarda, ai 4 minuti. Mi sembra che non si accorse nessuno, però a un certo punto guardavo non c'era più Luca in campo. È in bagno, insomma, feci quello che devo fare. Poi ricordo che passai attraverso la tribuna per accelerare il ritorno in campo, quindi in mezzo ai tifosi che probabilmente vedendomi non capivano. Entrai in campo, niente, arrivai da Agnolino, ho detto: fatto più, e mi diceva: fatta tutta? Sì, allora ricominciamo. Vialli si libera di un peso non solo prosasticamente. La Sampdoria gioca meglio, segna con Salzano, vince la Coppa. A fine partita Gianluca rivela: ho deciso, rimango qui, voglio vincere con la Sampdoria. Volevo semplicemente rimanere lì e quindi dissi chiaramente al presidente Mantovani, che invece ci aveva pensato più di una volta. E poi io ho sempre detto ai tifosi del Milan che mi dovrebbero ringraziare, perché se fossi andato io, magari Van Basten sarebbe andato da un'altra parte, quindi non so se ci avrebbero guadagnato. Sereso e Pagliuca, il Panzer Hans-Peter Brigel, poi Dossena, Catanez, Invernizzi e Lombardo sono i nuovi arrivi della Sampdoria. In panchina arriva un uomo straordinario, Vujadin Boskov. Sampdoria gioca un calcio con cuore, gioca con calcio come quando una mamma ama suo figlio e loro amano, ori amano i suoi tifosi. Penso che Sampdoria non è una squadra solo professionale. Sampdoria è anche una squadra che mette dentro anche tutto animo e tutto corpo. Devo dire che il grande salto di qualità l'abbiamo fatto nel momento in cui arrivò Vujadin Boskov, dal punto di vista proprio della mentalità, perché lui ci diede una mentalità vincente, una consapevolezza delle nostre qualità incredibile e ci aveva, insomma, trasmesso questa convinzione di poter battere chiunque. Qualcuno cominciava a parlare di scudetto, parola quasi sconosciuta nell'ambiente, e Paolo Mantovani raffredda gli animi. Scudetto alla Samp, dichiara, sarebbe come pretendere che l'Italia nell'atletica battesse gli Stati Uniti. I giocatori più forti però stipulano tra loro un patto. Nessuno lascerà la Samp finché non avranno vinto tutto ciò che si può vincere. Era un accordo che riguardava me, lui, Liercon e tutti gli altri giocatori, insomma, Mannini, Pagliù. Perché comunque oramai eravamo lì, volevamo cercare di arrivare a vincere tutto se ci fosse stata la possibilità. Nel 1988 così c'è da giocare la seconda Coppa delle Coppe. Boskov è l'allenatore giusto per guidare la Samp a livello internazionale. Ha già allenato il Real Madrid e al tempo stesso paterno, duro e inflessibile. La prima riunione, il primo giorno di ritiro, lui ci disse: allora io voglio che, perché noi siamo Sampdoria e Sampdoria è Sampdoria, disse, io voglio tutti i giocatori con la barba fatta tutti i giorni, la puntualità all'allenamento, la sera io vi controllo. In effetti riusciva sempre a sapere tutto, perché io ricordo la mattina, io so che tua macchina ieri era parcheggiata davanti là. Noi abbiamo pensato, porca miseria, ma chi è venuto come allenatore? È venuto un allenatore semplicemente vincente. Parla sei lingue, conosce il mondo, è colto e ironico, porta disciplina e mentalità. La Coppa delle Coppe è una cavalcata straordinaria fino alla finale. A Berna i doriani perdono 2-0 contro il Barcellona. Ma la Samp ormai è cresciuta. Vince un'altra Coppa Italia, travolgendo in finale il Napoli di Maradona per 4-0. Può riprovare con la Coppa delle Coppe. Viali e Mancini sono ormai una macchina perfetta. Roberto inventa, Gianluca segna. Fare un assist per il mio compagno d'attacco era per me comunque come segnare. Quindi lui poi era un giocatore che insomma si smarcava bene, era sempre la posizione giusta. E quindi lui ha avuto questa gran fortuna di giocare con me. Questo. Io dico sempre a lui che è stata una fortuna per lui giocare con me, perché qualsiasi passaggio, anche i più imprecisi, io li trasformavo in gol e quindi erano considerati assist da parte sua. In realtà ero io che trasformavo in oro anche delle cose molto normali. La Coppa delle Coppe 1989 vede di nuovo la Samp in finale. Avversari i belgi dell'Anderlecht. Per 90 minuti la Samp attacca, ma la palla non entra. Ai supplementari ci pensa Gianluca. Tenta di andare via Lombardo, sguscia molto bene sulla destra. Da poi al centro per Mancini, la palla per Sanza, lo tiro, palo, incredibile, e poi gol di Vialli, rocambolesca. Nel secondo tempo supplementare Mancini inventa, Vialli raddoppia, finisce 2-0, la Samp è tra le grandi d'Europa. La festa è lunga e indimenticabile, è l'anno dei mondiali italiani. Viali e Mancini non hanno grande feeling con la nazionale. Dal 1982 in poi, cronicamente incapace di gestire al meglio i giocatori di talento. Gli azzurri arrivano terzi. Vialli, protagonista delle qualificazioni, gioca poco. Mancini, mai. La Samp, che si presenta ai blocchi di partenza della stagione 1990-1991, è però guidata da due giocatori al pieno della maturità e desiderosi di riscatto dopo il Mondiale. Inizia un biennio storico per i gemelli del gol. Destini incrociati. Mancini e Vialli, i gemelli del gol. Alla Samp insieme dalla metà degli anni Ottanta, geniale assistman il primo, funambolico finalizzatore il secondo, trascinano la Samp tra le grandi del calcio europeo, nel 1990 con la vittoria nella Coppa delle Coppe, poi nello stesso anno i mondiali. I mondiali del 90 non andarono benissimo, però io dico sempre che è facile, insomma, se le cose andassero sempre bene, invece è quando cadi che devi avere la forza di rialzarti. Il nostro scudetto della Samp del 91 probabilmente fu generato anche dalla insoddisfazione che quel mondiale regalò non soltanto a me, ma anche a Mancini, Viarcud, Pagliuca, che praticamente non ebbero nessun tipo di spazio. Già, scudetto. Una parola che, pronunciata nella Genova blucerchiata, sembrava impensabile. Invece, Vialli e Mancini, nel 1990-1991, guidano la squadra a una cavalcata strepitosa, sotto gli occhi del sergente Boskov. Gli avversari si chiamano Maradona e Careca, Matthaus e Breme, Gullit e Van Basten, Roberto Baggio e Schillaci. La piccola Samp, con i gioielli italiani in prima fila, regge l'urto. La prima grande dimostrazione di forza arriva al San Paolo contro il Napoli di Maradona, uno scontro al vertice. Il Napoli domina per mezz'ora e va in gol con Incocciati. Poi Vialli e il Mancio salgono in cattedra. Manca l'intervento Baroni, Vialli al volo a pareggio. Poco dopo Mancini ribalta il risultato. Nel secondo tempo il capolavoro. Prima Vialli con uno strepitoso tiro al volo. Poi il gol incredibile di Roberto Mancini. Parabola che scese al limite dell'area, ero dalla parte opposta. Kaczynski calciava di sinistro, calciava di destro e la palla andò via dritta per dritta sul palo del portiere. È impossibile fare un gol così in quella posizione di destro, quindi quel giorno lì ci andò tutto bene. Uno dei gol più belli della sua carriera. Finisce 4-1 a Napoli, in casa dei campioni d'Italia. La Samp è ufficialmente la favorita per il successo finale. I ragazzi di Boskov mantengono la calma e l'affiatamento. Si arriva allo scontro finale contro l'Inter, seconda a 3 punti, a 4 giornate dalla fine, a San Siro. L'Inter attacca dal primo minuto, un assalto. L'eroe di giornata è Pagliuca, che para tutto. Mancini è in giornata no. Litiga con Bergomi, viene espulso insieme al nerazzurro. In 10 la Samp va in vantaggio con Dossena su assist proprio di Vialli. Pagliuca para anche un rigore a Mataus. Vialli raddoppia con un gol straordinario. Vince la Samp 2-0 e a più 5, a 3 giornate dalla fine. È fatta. E lì capisci che non puoi più perdere. Il 19 maggio 1991 Vialli e Mancini festeggiano il primo scudetto della storia blucerchiata. Inizia una festa straordinaria in un'atmosfera incredibile. La coreografia che c'era, insomma, tutti i tifosi felici. Fu un giorno indelebile, credo, la nostra. La scalata di Vialli e Mancini ha ancora una tappa, l'ultimo gradino, la Coppa dei Campioni. Nella stagione 1991-1992 i due dimostrano di essere tra i grandi del calcio mondiale, trascinando la Samp in finale della massima competizione mondiale per club. In finale, a Wembley, nel maggio del 1992, in un'atmosfera incredibile, c'è ancora il Barcellona. Era la chiusura di un cerchio per noi, insomma, perché arrivare per la Sampdoria, arrivare in finale di Coppa Campioni, insomma, fu un evento incredibile. Tensione alle stelle, la sensazione di essere alla fine di un ciclo. Vialli, si mormora, a fine stagione andrà alla Juventus. Può essere quella la sua ultima partita in maglia blu cerchiata. La finale è una battaglia. Le due squadre lottano alla pari. I doriani non si fanno intimidire dal blasone del Barcellona. A 10 minuti dalla fine, per 2 volte, Mancini inventa per Vialli. Gianluca però stavolta sbaglia. Eccolo! Eccolo! Eccolo! E il pallone va fuori! Ancora una volta la Sampdoria va vicinissima dal gol. Incredibile! La vedevo e dicevo, prende il palo, speriamo che entri. Invece poi all'ultimo momento addirittura non prese neanche il palo, uscì di pochissimo. Si va ai supplementari. Il risultato sembra non schiodarsi, si avvicinano i rigori. Vialli viene anche sostituito. A 4 minuti dai rigori, il Barcellona guadagna una punizione da posizione molto distante dalla porta, troppo distante per chiunque. Non per Ronald Koeman, difensore olandese del Barça, dotato di un tiro pazzesco. Una posizione che non... assolutamente non c'era. Infatti Roberto si era preso molto con l'arbitro. Koeman prende la rincorsa. Tutto lo stadio tiene il fiato sospeso. Il sogno di Genova, della piccola Samp, del presidente Mantovani, dei due gemelli del gol, Vialli e Mancini, si ritrova appeso a un filo. Il tiro è violentissimo. La barriera si apre. Pagliuca si allunga. Niente da fare. La palla si insacca. È finita. I giocatori doriani cadono, in ginocchio, preda dello sconforto, dei crampi, in lacrime. Il triplice fischio dell'arbitro riecheggia nelle loro orecchie. È finito un ciclo, una favola, una bella storia. La storia di Vialli e Mancini, i gemelli del gol, e del loro padre presidente, Paolo Mantovani. Vialli va alla Juve, stenta, si infortuna, ingrassa. Poi Lippi lo ricostruisce fisicamente. Vedendolo tirato a lucido nel ritiro di Villar Perosa, l'avvocato Giovanni Agnelli, rivolto a Lippi, dice: «Scusi, ma questo Vialli, quando è arrivato alla Juventus, era grasso come un tacchino. Adesso è magro, bello, corre e segna. Cosa gli avete fatto?» Gianluca vince tutto. Mancini resta altri 4 anni. La Samp fatica però a mantenere i livelli di prima. Poi, nel 1995, Paolo Mantovani muore. Roberto va alla Lazio. La Sampdoria di Viali e Mancini rimane comunque una delle squadre più forti, più belle e simpatiche della storia recente del nostro calcio. Le lacrime dell'attuale capitano doriano, Angelo Palombo, sotto la curva dello stadio Ferraris, fotografano il dramma sportivo di chi ha vissuto una bella favola e ora si ritrova nel purgatorio della serie cadetta. Sono però anche il punto da cui ripartire per riportare la Sampdoria nel posto che Viali e Mancini le hanno consegnato, tra le grandi del calcio italiano. Al contadino, chi smazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ma il cielo è sempre più blu, e il cielo è sempre più blu. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.